Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E 35 minuti, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. E buongiorno a tutti i corridori della Stramilano. Esatto, li ho incontrati venendo in metropolitana. All'inizio non ricordavo che oggi fosse il giorno della Stramilano. Dicevo, ma quanta gente che c'è, venite tutti in radio. Pensavo fossero tutti ospiti nostri. Infatti ho detto, Alessio deve aver deciso di intervistare dei runner. E va bene, è una cosa milanese, però ci piaceva ricordarlo. Oggi c'è movimento, c'è fermento, si corre la Stramilano. Io sarei lì con loro se non fossi qua. Ma perché tu sei uno con sportivo, la lingua vero? No, per niente, sarei lì a morire, però sarei lì per il divertimento di esserci. E va io bene. io no, devo dire. Poi stanotte ho anche pubblicato su Facebook una foto del fatto che sono stato messo a dieta dal mio ragazzo, quindi sono disastrato. Dovrei correre, forse è meglio correre, ecco, piuttosto esatto. Che mangiare dei terribili tortini di farro. Ci sei arrivato. 800 24 00 24, vi aspettiamo anche oggi e anche questa domenica per indovinare un personaggio della settimana. Vado a dare il primo indizio. Vai. Vado a dare l'indizio. Cercate un personaggio che negli ultimi 7 giorni ha una notizia che lo riguarda. È un personaggio, tac, indizio, 2 punti, è sorprendente. Sorprendente. Quindi pensate in questa linea qua. Poi daremo degli indizi più facilitanti, giusto? Carlo, Milano-Monterosa? Milano-Monterosa al momento non piove, appunto per la gioia di tutti i corridori della Stramilano, e attendiamo. Dopo che ieri ho detto sole, tu hai iniziato a dire ci sono le perturbazioni, effettivamente è arrivato anche un po' di nuvolaglia ieri, quindi non mi azzardo a dire null'altro. Hai visto? It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. E cominciamo la carrellata delle notizie della settimana, però così, con Chuck Berry, un omaggio al grandissimo Chuck, che se n'è andato a 90 anni. Se n'è andato stanotte a 90 anni. Eh sì, questi qua non dovrebbero mai fare questi scherzi, perché sono come delle colonne, come delle cose proprio che sono sempre state lì, no? Come avrebbe detto Benigni, come il vino, come l'olio, come il mare, come fai, esatto, a pensare. Sono immortali, era già immortale, alcuni probabilmente si chiedevano se fosse ancora vivo o meno. Poi è un peccato perché il 2016 ha segnato un sacco di morti eccellenti nel campo della musica. Poteva morire e dell'arte. Prima, dici, così completava l'anno, no? No, è invece, insomma, anche il 2017 pensa, ci sta regalando queste notiziacce. Pensa che la mia prima chitarra elettrica, notizia di grandissimo rilievo, naturalmente, era la stessa chitarra sua, cioè una sottomarca. Poi, quella poi due troppo, carriere diverse, possiamo un dire. Diverse, possiamo sì. Dirlo. Però tu sei vivo. Allora, le notizie della settimana, la notizia della settimana, tutti appesi ai voucher. Se la vise di Oco, si può to show you never can tell. Non era in campo una gara tra il governo e la CGIL e con nessun altro. Tema vero è come questo paese regola bene le relazioni di lavoro e come lo fa dentro la crismi di legalità. Era necessario andare in direzione di una drastica riduzione della utilizzabilità dei voucher, quindi non è una novità. Vabbè, i voucher sono già stati commentati tutta la settimana, noi arriviamo lunghi di domenica, non è che ci sia molto da dire, cioè, no, cioè, che più che altro sai cosa, Paoletti mi fa ridere, nega l'evidenza, non c'era una gara con la CGIL, ma come non c'era gara, l'ha detto anche Gentiloni, un referendum avrebbe diviso il paese, era sbagliato, allora diciamo che è veramente la toppa peggio del buco, nel senso che sui voucher si è detto e si sono spese tantissime parole, forse l'unica soluzione non molto sana era semplicemente eliminarli del tutto, visto che i voucher ci hanno spiegato che servono per eliminare una parte di lavoro nero, poi ne venivano abusati e come sempre vengono semplicemente eliminati a causa dell'abuso, è come dire, siccome i martelli vengono usati ogni tanto anche per spaccare la testa a qualcuno, vietiamo allora i martelli, esatto. Invece i martelli sostanzialmente servono per mettere i chiodi. Questo e i chiodi continua a servire un oggetto per mettere i chiodi, quindi continuerebbe a servire un qualche cosa per pagare le persone che lavorano poche ore magari alla settimana e non che il voucher sostituisca i contratti, visto ma eliminare solo i voucher non è una grande idea. Visto che noi siamo si può fare, questo è un si poteva fare meglio, ecco, esatto. Mettiamola così. Adesso però veniamo a noi e diamo il buongiorno e la buona domenica al presidente, o meglio al sindaco di Ferrara, presidente della provincia, punto di domanda, perché la provincia esistono ancora le province, penso di sì. Tiziano Tagliani, benvenuto. Buongiorno a tutti, buona domenica. Buongiorno. La domanda naturalmente è d'obbligo, se le province esistono ancora. Intanto però spiego il motivo per cui l'abbiamo invitata. Lei ha fatto un esposto perché alla procura e alla prefettura e anche alla Corte dei Conti per dire attenzione ragazzi, qua io non c'ho più un quattrino, sono ancora il presidente della provincia che doveva essere estinta con il referendum del 4 dicembre, che era già stata ridimensionata eccetera eccetera, però intanto di sicuro ci hanno tolto i soldi per strade e scuole. E quindi diciamo questo, da qui nasce la sua protesta in qualche modo. Però prima un aggiornamento su questa vicenda delle province. A che punto siamo? Le province esistono ancora perché si era votato il 4 dicembre per la loro abrogazione, il popolo italiano ha deciso che rimangano, ma sono rimaste sempre e sono rimaste soprattutto cariche di responsabilità di manutenzione della rete stradale e delle scuole secondarie. Però sono cambiate, no? Sono rimaste ma sono cambiate perché rispetto a come erano prima, che erano già state ridimensionate precedentemente, prima ancora del referendum. Sono cambiate, nel senso che ormai sono i sindaci che fanno i presidenti e i consiglieri provinciali gratuitamente e sono eletti dai loro colleghi senza alcun compenso e sono rimaste con competenze ridotte. Le due che le ho citato prima, che avete citato anche voi, strade e scuole superiori, sono le più importanti e anche le più onerose. Sono anche quelle che comportano maggiori responsabilità perché i ponti sulle strade e gli impianti di riscaldamento, gli impianti elettrici. Lei ha detto ponti volutamente facendo un riferimento alla cronaca recente, a quei cavalcavia che sono non a caso, franati. Non a caso, nel senso che da ormai 4 anni circa non possiamo più assumere nessuno e quindi abbiamo anche carenze di personale, ma quello che più conta è che non abbiamo le risorse per fare le manutenzioni né ordinarie né straordinarie e quindi dopo un inverno di ghiaccio e di neve, dopo anni in cui la carenza manutentiva si fa sentire, pericolo è un pericolo che grava sulle nostre spalle in termini di responsabilità, ma soprattutto grava sui cittadini, sui ragazzi e sugli utenti delle strade in termini di rischio. E questo non può andare avanti un pezzo. Cioè, ma mi scusi per capire, perché se fosse passato il referendum le province non esisterebbero più e quindi immagino che questi compiti sarebbero passati ad altri enti, non so, alle regioni o ai comuni. Invece in questo modo voi siete stati svuotati dei soldi, però siccome il referendum ha vinto il no, restano in capo a voi la manutenzione delle strade e delle scuole secondarie, ma non avete i soldi per farlo, giusto? Sì, in queste ultime finanziarie 1 miliardo all'anno sono stati tolti alla fine 3 miliardi dalle risorse delle province. Solo quest'anno il 1/3 miliardo è stato, come si dice, restituito, anestetizzato, ma 1 miliardo su tutte le province italiane non consente assolutamente, se non un riparto che non consente alle province di fare i bilanci, quindi le risorse che ci vengono attribuite non sono sufficienti a coprire neppure la metà delle spese che avevamo all'epoca su queste sole competenze. Ripeto, non vogliamo neanche un euro in più rispetto alle competenze tolte, evidentemente, ma rispetto a quelle che ci sono mantenute chiediamo di poter avere quello minimo che serve per garantire sicurezza. Del resto questa iniziativa è un'iniziativa che è anche sponsorizzata, aiutata, incentivata. arrivata dall'UPI, dell'Unione delle Province Italiane, e dal suo presidente Variati, che a Vicenza ha fatto la stessa cosa. Ecco, io vorrei chiederle proprio questo, cioè che senso ha questa iniziativa, a parte il fatto che lei ha la voce, gliel'hanno mai detto, somiglia moltissimo al suo concittadino, credo che sia di Ferrara, il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. Avete una voce quasi indistinguibile. Può darsi, perché c'è l'impressione di Alessale che che via comune. Io vorrei sapere, questo esposto che lei ha fatto è cautelativo, cioè è una cosa perché può sembrare anche uno scaricabarile, no? Come dire, io me ne lavo le mani, cioè serve anche per questo, per dire se dovesse succedere qualcosa su qualche rotatoria o delle buche stradali non ricoperte, oppure addirittura anche in una scuola, non è mia responsabilità. Non è così, nel senso che è ovvio che ha una natura soprattutto di carattere politico, di attenzione, come dimostra anche la vostra, e ha la natura, diciamo così, il compito di segnalare sostanzialmente una sconfitta, perché quando ci si rivolge alla magistratura significa che non si sono percorse le strade ordinarie, quelle quelle normali, che dovrebbero consentire alle istituzioni di far fronte ai loro compiti. Del resto, in questi anni è stata approvata, negli ultimi mesi, per la verità, è stata approvata. La sentiamo la voce sempre più sottile, non so se si sta allontanando, Posso parlare più forte. Ecco, in questi anni è stata anche approvata una normativa di carattere stradale, quella sì, che viene chiamata l'omicidio stradale, che impone anche agli amministratori una responsabilità diretta in caso di sinistro mortale. E dico la verità, noi facciamo questo lavoro gratis, io mi pago anche le polizze assicurative, mi pago anche le spese per gestire personalmente questo compito, così come fanno tutti i presidenti di provincia. Però direi che è abbastanza imbarazzante trovarci in queste condizioni, ripeto, non da un mese, da una settimana, ma da ormai sono 4 anni, dal 2014, sono 3 anni che non sappiamo qual è la fine di questa situazione, quindi siamo arrivati ad un punto ultimativo della nostra capacità di resistere. Sì. Infatti, se posso dire, in realtà il problema che voi sollevate è molto chiaro e molto preciso. La cosa che mi chiedo, al di là dell'esposto, la politica che cosa intende fare? Nel senso che intendono far finta di niente nel momento che non è passato il referendum? È ovvio che questo è un tema attualissimo, nel senso che bisogna capire, prima si sono svuotate le province per eliminarle, non si sono riuscite a eliminare, e adesso bisognerà decidere qualcos'altro. Da alcune settimane è in piedi una discussione con l'UPI, tra l'UPI, l'ANCI e l'Unione dei Comuni e l'Unione delle Province e l'Associazione Nazionale dei Comuni con il Governo, per l'emanazione di un decreto enti locali che finanzi queste spese. La discussione è tutta qui, siamo ormai fuori tempo massimo, perché se anche approvassimo i bilanci ora, lei capisce che i lavori sulle strade, con i tempi degli appalti che abbiamo in Italia, faticheremmo a farli nell'estate, d'inverno non si possono fare, quindi è un segnale per dire che bisogna anche fare in fretta. Quindi bisogna correre per finanziare questi lavori, ma anche poi per decidere cosa succederà delle province. Intanto le anticipo una domanda, poi facciamo una piccola pausa sulle informazioni sul traffico. La domanda è questa, perché sorge un dubbio. Visto che, dati alla mano, stanno aumentando le previsioni di bilancio di tutti i comuni italiani, e anche del suo, e quindi anche delle province, però, perché riguarda anche voi, per quanto riguarda le strade, le multe, le previsioni di multe, sempre più multe. Per esempio, a Ferrara le notizie degli ultimi settimane sono multe ai ciclisti, multe alle prostitute per strada. Cioè, non è che adesso che state rimanendo senza un soldo vi buttate sulle multe, che però dovrebbero servire a disincentivare comportamenti scorretti anziché a fare cassa. Domanda, traffico, torniamo tra un attimo. Ferkam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Ferkam.com vi presenta. Cioè, il ritornello dei Righiere è abbastanza chiaro, no? È abbastanza indicativo di quello che sta succedendo un po' ovunque, perché io leggo, caro sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, leggo, allora, un'indagine dell'ADN Kronos mostra che tutti i comuni italiani stanno mettendo a budget per il 2017 maggiori introiti per le multe, per esempio solo a Roma e Milano 22 milioni di euro in più. A Ferrara, ciclisti in allerta, multe salate per chi viola il codice della strada, si va fino da 163 euro in su. Poi leggo ancora, multe a alle prostitute, sempre a Ferrara, giro di vite. Poi leggo a Torino il sindaco Appendino aumenta i costi dei parcheggi nelle strisce blu per chi abita nelle zone di residente, anche se introduce per la prima volta una differenziazione in base al reddito, e questa credo che possa essere una buona notizia, perché chi ha bassi redditi pagherà di meno, ma tutti quegli altri, cioè la stragrande maggioranza poi delle persone, ahimè, pagherà molto di più. Allora la domanda è questa: vi state buttando sulle multe un po' ovunque in Italia perché non avete più una lira, però così si rischia di incattivire l'automobilista, il cittadino, il ciclista, un po' tutti. Mi lasci dire un paio di cose. La prima è che non è vero che buttare le prostitute, non so dove l'abbiate letto, ma no, è una falsità. No, è chi parla con le prostitute. Ah, ecco. Ci sono alcune situazioni in città dove, diciamo così, per dissuadere dal fenomeno, diciamo così, di una prostituzione, diciamo così, che attraverso, diciamo così, le problematiche legate all'immigrazione, ci deve mettere nelle mani qualche strumento di contrasto, perché altrimenti in alcuni quartieri non si vive, abbiamo deciso di multare i clienti. Sì, però lasciamo perdere questo aspetto, lasciamolo da parte, no, per un momento. Io l'ho messo dentro perché sempre di multa si tratta. Parliamo un attimo dei ciclisti, perché i ciclisti a Ferrara sono un'invasione, sono decine di migliaia. Sì, vabbè, la città delle biciclette, la città delle biciclette. L'anno scorso, proprio perché gli automobilisti, diciamo così, si tallonano da questo punto di vista, abbiamo fatto 116 multe, quindi non si fa un bilancio con 116 multe all'anno, perché saranno 5-6 mila euro di entrate effettive, quindi non è questo. Che però i comuni stiano aumentando le entrate per le multe, questo generalmente è vero, non è vero per il bilancio del mio comune, ma questo non fa la differenza. È vero che i comuni stanno aumentando le entrate per le contravvenzioni, perché è uno dei modi che hanno per rallentare le velocità, per far rispettare il codice, per dare sicurezza laddove hanno meno risorse. È anche per fare cassa, nel senso che vanno spesi per le strade, quindi se non ci sono altre risorse o si aumentano le tasse o si puntano le condotte più pericolose. Anche questo punto, no? Noi lo chiediamo sempre, quale garanzia ha il cittadino, per esempio di Ferrara, che i soldi che il comune incassa con le multe vengano spesi effettivamente per fare quello che diceva lei? Basta che faccia un confronto fra le entrate delle contravvenzioni e le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Vedrà che le prime. E come fa a fare questo confronto? Dove lo trova i dati di bilancio? Sono pubblicati sul sito del comune, sono pubblicati sul sito del comune, e vede che i soldi per la manutenzione delle strade e delle infrastrutture stradali sono molti di più che non le entrate per le contravvenzioni. Quindi i soldi delle multe dei ciclisti andranno solamente per la manutenzione delle piste ciclabili? No, non servirebbero neanche a fare una striscia gialla lunga 10 metri. è meglio che ce ne mettiamo degli altri. Giusto. Quindi aumento delle multe, però vuol dire aumento anche della manutenzione stradale. Quindi da questo punto di vista, magari non a Ferrara, perché lei dice che le multe non sono aumentate. No, sono aumentate. Anzi, sono in calo, purtroppo, dico, ma sono in calo un po' perché i cittadini guardano bene a dove spendono i soldi, quindi sono molto più attenti, ma anche perché c'è una normativa che dice che c'è uno sconto del 30% se non pagano i 5 giorni, e questa norma ci ha abbassato giustamente le entrate in questi ultimi anni, quindi c'è una maggiore attenzione, un maggior rispetto del codice e anche la possibilità di avere uno sconto del 30%. A Ferrara si avvalgono di questa possibilità quasi tutti, quindi le entrate negli ultimi anni, per la verità, sono calate. Corrono tutti a pagare, felicissimi, esatto, di pagare. No, felici non tanto, però pagano. Grazie al sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, nonché presidente della resuscitanda provincia. E questo era il grido di dolore di una delle tante province italiane. Poi voi direte, i soldi ci si possono trovare, possono risparmiare, però mi sembra che almeno a livello di province più di tanto non si sia da tagliare, perché soprattutto se gli vengono lasciati i compiti in qualche modo, sennò poi è difficile lamentarsi dei cavalcavia che cadono. E va bene, quindi 800 24 00 24, vi aspettiamo per commentare anche questa intervista col sindaco di Ferrara. Intanto però, ascoltatori, Giuseppe dalla provincia di Ragusa, buongiorno. Buongiorno, benvenuto e buona domenica anche ai radioascoltatori, a voi in studio. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Giuseppe? Allora, intanto volevo rispondere sul personaggio, se possibile. Sì. Avete dato già un indizio. Certo, chi prego. È? Chi è? Quindi, ho riflettuto un po', mi sembra Montezemolo. A me ha lasciato molto, molto sorpreso il fatto che ha lasciato la Ferrari, è passato all'Italia e che ha lasciato di nuovo l'Italia. Non sento le campane. Non sente le campane perché volevamo che lei finisse di raccontare la notizia. Il motivo per cui Montezemolo questa settimana Montezemolo, ha detto che lascia l'Italia, e questa è la notizia, quindi lei lo dice, è una sorpresa, però non era lui. Dai, non è la sorpresa lui, che abbiamo scelto, ma la ringraziamo molto di aver chiamato. Grazie. Grazie Giuseppe. Gianni da Verona, vai. Ciao. Allora, personaggio a negativo, però a negativo, molto negativo, Minzolini. Minzolini, questa settimana c'è stato il voto, esatto, che ha negato l'autorizzazione, e quindi? Io il personaggio negativo metterei anche tutto il Parlamento. Ecco, esatto, era lì che volevamo portarla, perché forse la sorpresa più che di Minzolini è stato del Parlamento, che ha votato a sfavore e quindi l'ha salvato. Infatti insomma, non era lui. Non è la prima volta. Non era lui. Grazie Gianni, è un altro il personaggio che andiamo cercando, che ha una sorprendente 800 24 00 24. Tra poco dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sono arrivato fino ad oggi, fino all'ultima tappa di questo calvario. Sono pronto a bere la cicuta. La storia dell'umanità, in fondo, è un lungo elenco di ingiustizie. Proprio oggi, 39 anni fa, fu rapito e ucciso quel galantuomo di Aldo Moro. Poi, qualunque sia l'esito della votazione di oggi, mi dimetterò da senatore, sicuro di avere la coscienza a posto. Minzolini come Aldo Moro, chissà se hanno già cominciato a scrivere la sua biografia nei libri di storia, inserito nell'elenco delle grandi ingiustizie dell'umanità. Ma io non ho capito, si è dimesso o no? Si è dimesso o no? Boh, perché prima ha detto mi dimetto, però io non ho ancora visto le dimissioni. Allora, settimana è occupata anche da questa notizia, Di Maio è andato tutte le furie, ha detto poi non lamentatevi della violenza. Esatto, è stato criticato anche lui per questa affermazione. Intanto però commenti all'intervista col sindaco di Ferrara, nonché presidente della provincia, che ha fatto un esposto alla Corte dei Conti dicendo, alzando le mani, non ho i soldi per le strade e per le scuole. A Vimercate, ci scrive Andrea da Brugherio, nell'istituto superiore di mio figlio hanno appena compiuto un furto spaccando finestre in 21 aule, rubando decine di computer, lavagne elettroniche, porca miseria, e la provincia pare non abbia soldi neppure per ripristinare i vetri. E quindi una conferma. Poi invece ci scrive un altro ascoltatore, le nuove tariffe per la ZTL a Torino non sono poi così alte e l'averle differenziate mi sembra più che corretto. A Lecco per esempio si versano 120 euro senza alcuna distinzione. È giusto, infatti l'abbiamo detto, è una buona notizia che il sindaco di Torino Appendino abbia inserito la differenziazione. La differenziazione in base al reddito del pagamento delle strisce blu dovrebbe essere fatto, io penso personalmente, anche per le multe, perché se la multa è oltre che una sanzione a un comportamento sbagliato è anche un disincentivo, no, al comportamento. Per cui chiaramente gli stessi 100 euro a Carlo Gabardini non sono nulla perché è ricco, per me che sono povero invece... purtroppo è invertita la questione, però anche questa questione di avere anche le multe proporzionali, siccome in questo paese già si pagano in maniera proporzionale le tasse, solitamente uno dice, io già uno che guadagna di più paga più tasse, se poi ogni cosa la pago anche di più, diventa un po' un problema. O di meno, è quella la questione. O di meno, però, o di meno, e quindi non è un problema, ma è un'opportunità, come accadrà a Torino. Allora, l'ascoltatore approva, apprezza, però i torinesi non molto, perché in realtà poi la tariffa più bassa la pagheranno in pochi, e sembra che in realtà pagheranno tutti molto di più. Quindi è un modo, tu dici, per alzarla e basta. Questo è il sospetto. Staremo a vedere. 800 24 00 24, Movimento 5 Stelle però ancora nella bufera. Genova. Il metodo Genova prevedeva un percorso che si era concluso in modo democratico con una votazione online. Sul blog era uscito il mio nome come vincitrice di questa votazione. Deve essere successo qualcosa da martedì ad oggi. Cosa esattamente non so, e siamo in attesa di capire. Spero che adesso ci siano dei chiarimenti. Lei è delusa in questo momento? Certo, un pochino di perplessità c'è. Lei è la povera Marika Cassimatis, poco dopo aver appreso di essere stata cancellata da cosa? Da non si sa. Essere cancellata, cioè, da una cosa che era stata fatta la loro. No, dopo, cioè, aver vinto, dopo aver vinto le comunarie con più voti, invece Grillo ha detto no, tu sei fuori. Addirittura chiedendo un atto di fede, chiedendo ai suoi iscritti, abbiate fiducia di me, è così e basta. E da quello che ho capito poi hanno fatto un'altra votazione in cui c'era solamente l'altro candidato, quindi potevi votare o l'altro candidato o decidere di non votare. Diciamo che forse questo metodo Rousseau è ancora un po' da perfezionare. Si poteva fare meglio anche qua. Loredana dalla provincia di Monza, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie per la compagnia che mi fate. Allora, io pensavo che trovo sorprendente che Berlusconi sia stato spinto dai suoi cortigiani a tornare all'attacco. E allora vorrei aggiungere anche, basta con i pagliacci tipo Salvini, Grillini, Berlusconini, più tutti, donne e uomini composti, sì, seri, abbiamo bisogno di gente seria, ecco, un grido così, grazie. Grazie a lei, ma però ci dia anche dei consigli dove andiamo a trovarli questi uomini seri. Sono, e che non si fanno avanti perché hanno capito che una volta arrivati lì, entrano in quel giro infernale che li porta a, che li rende tutto uguale. Ma poi non ho capito il ritorno di Berlusconi a cui lei si riferisce, qual è a cosa si riferisce in particolare? Mi riferisco che abbiamo sofferto per tanti anni perché l'hanno attaccato, sì. All'inizio sembrava un'aria nuova, poi piano piano si è capito che in fondo lui faceva i suoi interessi, non era un uomo politico ma era un grande industriale. Sì, no, va bene, ma dico, il ritorno adesso di Berlusconi a cosa si riferisce? Perché l'ha fatto vedere al telegiornale che lui torna tutto pimpante con i suoi, almeno quello che ho visto alla TV, ritorna che tenta di formare un nuovo governo suo, promettendo già niente tasse sulla casa, sulla prima casa, sulla prima macchina e tutto questo. Promesse che conosciamo. Non è così. Si fanno le promesse veramente per arrivare a quel posto. E poi la vita continua, perché là dentro ci vorrebbe veramente un colpo di stato là dentro, non bombe, ma un colpo di stato di gente seria che si ribelli. Su questo direi che possiamo darci tranquillamente la buona domenica, salutarci e tanti saluti. E cercavo di capire se era una risposta anche al personaggio della settimana questo ritorno, perché abbiamo dato come indizio che è sorprendente. In ogni caso possiamo dirlo che non era Berlusconi il personaggio della settimana. Possiamo dirlo. Giovanni da Milano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo rispondere al personaggio della settimana. Prego. Penso sia la Merkel, lo stupore, insomma, che al quale davanti Donald Trump. Lo stupore negli occhi di Angela. In effetti, qualche foto, qualche fotogramma lo ha ritratto. Questo stupore. La notizia c'è, è tutto giusto, ma non era il personaggio che abbiamo scelto per questa settimana. Ma la ringraziamo di aver chiamato. Buona domenica. Salve pure lei. Era una bella spigolatura questa qua di Angela Merkel. Allora, cosa facciamo? Diamo un altro indizio? Diamo un altro indizio? Aiutiamo gli ascoltatori. Volentieri, sì, diamo un altro indizio. La notizia che stiamo cercando legata al nostro personaggio è una notizia di una prima volta, quindi possiamo dire che è un'epifania. Sorprendente e prima volta sono i due indizi di oggi. Traffico, facciamo anche l'altro ascoltatore, lo sentiamo velocemente, poi traffico. Roberto da Treviso, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Io volevo entrare un attimo nel merito delle questione province per chiarire un aspetto. Sì. Non è stato il referendum lo spartiacque, ma bensì la legge del Rio, quella che ha ridelegato le funzioni alle province. Perché anche se avesse vinto sì il referendum, le province si sarebbero chiamate semplicemente enti di area vasta e non province, ma le funzioni sarebbero rimaste le stesse. Per cui la manutenzione delle strade, cioè quindi le strade e le scuole, per esempio, due deleghe pesantissime, comunque avrebbero visto gli enti di area vasta dover gestire. E quindi il punto non è che abbia vinto sì il referendum, ma che la legge... No, abbiamo detto che è un percorso lungo che viene prima dal referendum, quello che ha prima ridimensionato e poi avrebbe dovuto, nella versione del referendum, cancellare o riformare ancora le province. Il punto adesso è cosa farne e in che direzione deve andare questo percorso di riforma delle province, ce l'ha spiegato chiaramente il sindaco di Ferrara. Grazie Roberto per la precisazione. Traffico, torniamo tra poco. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. Hello, io no go, stamattina mi ha svegliato il sole, l'odore del caffè, posteri e canzoni. Da quanto tempo che non stavo così, ogni cosa con me, c'è qualche vada per me, ma non mi manca niente. Stamattina non mi manca niente. E allora diamo il benvenuto a Marisa Laurito. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. È un grande piacere. Sveglia con la voce così perché faccio teatro. Sì, e quindi la mattina è una tragedia. Quattro donne e una canaglia, teatro al Fiere di Torino, fino al 19, cioè, esatto, fino a stasera, quindi l'ultimo c'è tempo. Giorno. Benissimo Marisa, e allora bene. Insomma, noi vogliamo affrontare con te anche questa questione della terra dei fuochi. Tu sei stata protagonista di un film, di un docufilm che è uscito qualche tempo fa, ha avuto già delle proiezioni. Intanto sì, ma non solo, sono molto impegnata in questo argomento perché insieme agli attivisti, perché vorrei veramente che accadesse qualcosa. È questo il punto. Sai che io mi occupo anche di arte contemporanea. Certo. Ho presentato una foto al mio first photo, scattata nella terra dei fuochi. Perché guarda, bisogna parlare della campagna perché la situazione è gravissima, perché lì la gente muore. Però purtroppo la cosa grave è che stiamo girando un altro docufilm, perché la gente non muore solo lì. Ci sono 19 regioni italiane implicate in questa storia e quindi veramente bisogna che... Si dice terra dei fuochi, ma è diventato un simbolo, vale per quell'area lì, cioè esatto, la zona tra Napoli e Caserta, così nominata da Saviano in Gomorra, dove venivano interrati anche rifiuti tossici. Si dice terra dei fuochi, si legge Italia. Si legge purtroppo Italia. E anche questo è come un fiume carsico, ogni tanto se ne parla poi sparisce dal circuito mediatico. Industriali e rifiuti tossici, anche nucleari. E purtroppo l'acqua fa il resto, perché vedi anche a Brescia la Caffaro ha sotterrato 500 kg di diossina e purtroppo questa diossina che è rimasta lì perché l'hanno chiusa la Caffaro, però la diossina è lì e quando piove naturalmente bagna i terreni e l'acqua porta via tutto in giro. Quindi la situazione è veramente drammatica. Allora, io voglio ricordare il titolo, Il segreto di Pulcinella, il tuo film, nel quale tu appunto fai la parte... Prodotto da Armando Fusco, che è un ragazzo giovane coraggiosissimo che vive a Caivano e che quindi ha pensato di anche rompere il silenzio con una marea di persone. Poi rompere il silenzio. Il segreto di Pulcinella... chiama così esatto, perché sono 20 lo sapevano anni. Tutti, certo. Ecco, lo sanno tutti. Pentito, io faccio la parte della moglie di Schiavone, che è stato il primo pentito 20 anni fa a dichiarare e a portare tutti su questi terreni e a parlarne. Però da allora a oggi non è accaduto niente. Ecco, ma perché secondo te, visto che in questo film ci sono delle mamme che hanno perduto i loro figli e che hanno fatto i picchettaggi insieme ad altre mamme per non far entrare immondizia in questa terra ancora? Ecco, ma perché secondo te queste mamme che hanno fatto i picchetti hanno convissuto però a fianco di altre persone che hanno fatto finta di niente? Perché io leggo da un virgolettato proprio di Carmine Schiavone, che rilasciò questa famosa intervista prima di morire, nella quale rivelò alcune delle nefandezze che lui stesso aveva fatto, dove aveva interrato alcuni rifiuti, che cosa voleva dire quella storia. Lui dice: perché nessuno parla? Tanto che gliene frega che la gente muore. I bambini nascono deformi e muoiono di leucemia. Cioè, a fianco alle mamme che hanno denunciato, che hanno fatto, eccetera, ci sono però tante persone che hanno fatto il segreto di Pulcinella, non hanno voluto vederlo. Sono conniventi, ci sono delle connivenze di camorristi con lo Stato. Non voglio dire che lo Stato sia tutto connivente, però ci sono queste connivenze. È inutile nascondere la testa. La verità è molto grave, perché ci sono, ripeto, rifiuti nucleari arrivati da chissà dove, perché prima hanno riempito il nord, poi il sud, quindi è una tragedia. E questi rifiuti, ripeto, alcuni sono nucleari, altri sono di industrie che lavorano a nero e quindi ovviamente non sanno poi dove andare a sversare. Ed è qui che la vicenda riguarda tutto il paese, certo. Perché non solo sono cose prodotte. Il Bresciano c'ha la Caffano e Montichiari, Taranto c'ha l'Ilva. Io adesso farò una mostra fotografica su tutta l'Italia che girerà insieme al docufilm, e insieme agli attivisti voglio lavorare perché devono bonificare, perché la gente muore, a Taranto muore. Certo, aveva stanziato 60 milioni di euro per cercare di curare la gente in loco, perché il problema è anche quello: a Taranto molta gente non può curarsi perché devono viaggiare per curarsi. Avevano stanziato dei soldi per farli curare in loco, pochi giorni prima di darli a Natale. Sono stati dirottati sulla Ryder Cup 60 milioni di euro. Quindi tu capisci che, cioè capite che è sconvolgente tutto questo. Allora, è vero che esiste tutto questo da 20 anni, ma noi vogliamo fare prendere coscienza. Io ne voglio parlare fino alla nausea, perché la gente lo sappia, lo capisca e si ribelli. Perché sai che cos'è? Che fra 20 anni noi, a parte che si morirà nel frattempo, ma fra 20 anni noi lasceremo un'eredità pesantissima. Cioè tu dici si rischia l'assuefazione, questo segreto di Pulcinella rischia di trasformarsi in qualcosa di ancora peggiore, cioè un incubo che non ci fa risvegliare mai però. Quando si può, le prossime proiezioni di questo segreto di Pulcinella? Stiamo facendo delle proiezioni nelle scuole, sì. E l'abbiamo fatta alla Regione Lombardia, l'abbiamo fatta a Brescia, l'abbiamo fatta a Bologna, all'Istituto del Cinema. Quindi noi stiamo facendo ora delle proiezioni, come dire, private, nel senso che facciamo vedere ai ragazzi, coinvolgiamo degli attivisti. Poi ad aprile uscirà nel cinema. Uscirà liberamente nei cinema. Ma senti, volevo dire anche parlare della regia, che è di Mary Griffo, sì, giusto. Che è una ragazza molto molto brava. Che l'ha anche scritto questo film. Che l'ha anche scritto. Ma volevo chiederti: com'è questo personaggio di Mara, che è la moglie, la appunto, moglie del pentito di mafia Carmine Schiavone? È una donna totalmente distrutta, a cui è stata distrutta la vita prima di tutto perché è stata umanamente innamorata di quest'uomo e ancora è molto innamorata di quest'uomo. che naturalmente non meritava questo amore. Eh no, infatti era per questo che ti chiedevo, che mi sembra un personaggio molto complesso, da tragedia molto direi quasi. Perché successivamente poi è una donna distrutta perché è stata colpita dal tumore, perché lei ha vissuto nella Terra dei Fuochi, quindi lei ha avuto un tumore anche lei, quindi distrutta moralmente, distrutta fisicamente e distrutta perché quando lui poi si è pentito, lei amandolo ha preso i figli e lo ha seguito in questo percorso di sicurezza, diciamo. Certo. Quindi è rimasta isolata completamente, andata via dalle terre che l'avevano distrutta, ma dove lei aveva tutta la sua, il suo mondo, e quindi isolata con i figli e con quest'uomo, senza vedere più un parente, perché è stata anche, come dire, schifata da tutti. Perché certo. I pentiti, peraltro, sono schifati dalla camorra e schifati anche dagli altri, perché quando vengono a sapere, anche forse se le cose si sanno, per esempio tutti i suoi parenti di Mara Schiavone, quando hanno saputo tutto quello che aveva fatto, non l'hanno voluta più vedere per due motivi. Uno, perché pensavano di essere colpiti dalla camorra e di essere uccisi. Certo. Quindi c'è il terrore. Quindi un personaggio molto complesso, molto infelice. Sentiamo un pezzettino del trailer di questo Il segreto di Pulcinella, il film sulla Terra dei Fuochi con Marisa Laurito. Non piace chiamare questa terra dei fuochi. Noi questi fuochi non li abbiamo visti mai. Noi vediamo sempre solamente fumi. Era finito il tempo di Carmine Schiavone. C'erano affari nuovi che vendevano molto di più. L'aria intrisa di diossina, dai rochi che appiccolano continuamente. Infatti mi chiesero gli oncologi se io abitassi in zone dove ci fossero centrali elettriche, cose radioattive. È possibile che questa storia finisce così? È un po' triste. Ma volessimo cagnare finale. L'ultima battuta, Marisa, è da sottolineare, no? Vogliamo cambiare il finale. È da sottolineare perché, sai, finisce male, finisce con tutti questi bambini morti, questi morti attaccati le fotografie a un albero, e poi finisce invece con tutte queste mamme che fanno i picchettaggi, con la gente che si ribella. Sai, ci vogliono i soldi, il governo deve trovare i soldi. Voglio dare però una buona notizia, perché questa settimana, è anche questa una delle notizie da cui volevamo partire, è che sta prendendo il via una campagna che si chiama Selfie Care e che dovrebbe garantire, tramite l'ASL di Napoli 2 Nord, uno screening contro i tumori per 680.000 persone di quell'area. Quindi insomma, tu dicevi prima, a Taranto la gente deve andarsene per potersi curare. L'importante è fare la prevenzione, e qui parte una campagna di screening, quindi è giusto che i napoletani lo sappiano. Don Patriciello in questo film dice a un certo punto: perché noi non vediamo i fuochi, vedevamo solo i fumi, cioè proprio a sì, sottolineare questa idea. Sai, i roghi vengono fatti, alcuni, perché non tutti sono roghi, i roghi vengono fatti nelle campagne, e quindi si vedono questi fumi dai paesi. Ma quest'area è sempre nera, è sempre pesante. Io sono andata a scattare la foto per portarla al Mina, sono stata mezza giornata, ma io mi sono sentita male. Certo. Se tu fai dei sopralluoghi in questi terreni, è una cosa che ti viene da vomitare, perché ci sono ancora contadini che coltivano quella terra. Ed è per questo che è importante un film come questo, Marisa, perché bisogna che questa verità che sfugge, questo fumo che si vede, diventi una verità invece che si possa conoscere e afferrare a piene mani. Quindi questo sarà possibile farlo anche grazie a questo film, Il segreto di Pulcinella. Noi speriamo che magari qualcuno che ci sta ascoltando, qualche scuola per esempio, voglia invitarvi per fare qualche proiezione. E qualche dibattito, perché è importante che soprattutto i ragazzi, ma tutti, conoscano questa storia. Grazie Marisa Laurito, un grande abbraccio. Io ringrazio voi per aver parlato in bocca al lupo. Ci mancherebbe, grazie mille, buona domenica. Grazie. E allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, abbiamo qualcuno per il personaggio della settimana? Facciamo velocemente un paio di ascoltatori. Mario da Roma, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno. Io volevo dire, diciamo, tentare, diciamo così, la sorte col nome dell'eventuale personaggio. Prego. Però, e dico che è Grillo, che ha sorpreso, per quanto mi riguarda, il fatto che sostanzialmente prima ha creato tutta una struttura politica che è, diciamo così, considerata dalla base, e poi la parlo del fatto di Genova, sì. E via, e poi ha dissuaso un atto, diciamo così, personale. Ci ha lasciato un po' di stucco, in effetti, ci ha lasciato un po' di stucco. Chiedendo un atto di fede. Tutto basato sul web, e poi invece si torna all'atto di fede, e in effetti non era lui. Non era lui il personaggio. Però diciamo che ci stava, ci poteva stare. Però, ma voleva intervenire anche su qualcos'altro? Sì, volevo solo dire una cosa. Io di mestiere faccio il tassista, sono uno dei tanti tassisti che ci accompagnate, sì, diciamo così, nel nostro lavoro. Però io faccio il volontario in carcere da 20 anni e Bravo. Mi occupo di ergastolo e di ergastolo ostativo. Volevo ringraziare la signora Laurito, sì, che con quelle regista naturalmente e via, perché praticamente con questo suo gesto ha umanizzato anche specialmente i familiari delle persone detenute che vivono la carcerazione e l'esclusione sociale senza colpe e senza responsabilità. Grazie. Molto bene. Grazie Mario. Grazie. Alberto da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Vai. Volevo partecipare al personaggio della settimana. Siamo tutti orecchi. È rimasta sorpresa questa signora Islam Moussif, che è una ragazza che è stata premiata dai gruppi parlamentari quale una delle migliori laureate d'Italia, e poi voleva assistere alla seduta a Montecitorio e gli è stato impedito perché non è di origine italiana, e quindi la sorpresa è stata... Certo, siamo in silenzio perché volevamo che raccontasse lei la notizia del fatto che non l'hanno fatta entrare, e quindi in realtà è un non si può fare questo, ma non è il personaggio che avevamo scelto, però grazie, la ringraziamo ad aver chiamato anche per aver ricordato questa notizia. Io ero in silenzio perché in realtà non conoscevo questa notizia, però ricordiamo i due indizi, magari tra poco ne diamo un altro. È sorprendente questo personaggio e riguarda una prima volta. Una prima volta, quindi pensate a una sorpresa e a una prima volta di questi ultimi 7 giorni. 800 24 00 24. Ma tra poco vi daremo un altro indizio, se non ce la fate da sola. Certo. Vai. Talman, som förälder så säger jag det som många föräldrar har sagt förr. Genom mitt barn så ser jag världens barn. Och att veta om att jag som europé när jag lägger mitt barn ikväll... Vabbè, possiamo sfumare la... Pensavo che volessi partire con una traduzione in simultaneo, in tempo reale. Lei era Gitte Guteland, deputata socialdemocratica svedese, che è intervenuta all'Europarlamento. E fin quando dice chi se ne frega. Come chi se ne frega? No, vabbè, cioè, perché lo dite? Perché aveva in braccio il suo bambino piccolo, che sta ancora allattando, e quindi non voleva lasciarlo. Gliel'hanno fatto portare ed era, devo dire, molto bello vedere questa molto bello, deputata soprattutto col bambino che cercava di di prendere il microfono. E lei che continuamente lo allontanava. E lei parlava della carestia in Sud Sudan e ha detto anche una cosa bella, perché non era un caso che avesse anche il bimbo con sé, dicendo: l'Europa garantisce che stasera i miei figli dormiranno al sicuro, ma so che ci sono mamme in altre parti del mondo che non possono garantire la stessa cosa. Ed era molto bello perché lei, nonostante avesse il bambino che in tutti i modi, andatevelo a vedere il video di Gitte Guteland, cercava di distrarla in qualunque modo, lei andava dritta per la sua strada, non si è fatta assolutamente distrarre, ha fatto il suo intervento. Vuol dire che si può fare, cioè fare la mamma e contemporaneamente fare anche qualcos'altro. E contemporaneamente essere una svedese, volevi dire. E contemporaneamente dare anche il terzo indizio, lo diamo perché ci agganciamo. Giusto, perché ci agganciamo. Anche il nostro personaggio, vai Carlo. È una donna in un mondo di uomini. Quindi pensate a una donna in un mondo di uomini, ad una prima volta. E una notizia sorprendente. Prendente, 800 24 0024. Bimba elettrica, sempre in cerca di una scossa oltre la frontiera della pelle negli ossa. Insaziabile, creatura in estinzione, ti presenti qui col coraggio e l'intenzione. Salti su, cavalchi sulla bisso. Distrazioni ti vanno strette, le tue emozioni hanno uno strano effetto. E truccati gli occhi, affronta le tue ombre, fatti più forte che il mondo ti confonde. Dici di sì ai tuoi cavalli bianchi, e ora tu stai scatenando elettrica. Oh, Litfiba elettrica. Stavo cercando di capire dalle facce in regia di Carmelo Ricella e Lorenzo Nespoli se questo Litfiba piaceva o no. Non piaceva, non tanto. C'era è che un stavi po' di arrivando alla parola elettrica. Aspettavamo, come sempre, c'è un riferimento. Allora c'è una notizia, perché questo è veramente un bel si può fare, un bel si può fare della domenica, perché nella settimana in cui sembra che stia scoppiando anche un Renault Gate, dopo il Volkswagen Gate e quant'altri, anche qui possibili emissioni truccate. Ma dal momento che Trump ha detto che le emissioni delle automobili sono tutte deregolamentate, che va benissimo che ognuno faccia quello che vuole, perché il problema dell'ambiente non è l'ambiente, direi. Fatti che ha detto suoi, noi non ci stiamo e continuiamo a cercare di vivere in un mondo migliore. E allora è stata presentata qualche giorno fa, a Fa la cosa giusta, una innovazione portata alla Mobility Revolution, la prima rete di imprese costruita per lo sviluppo del retrofit elettrico dei veicoli. In pratica sono andati alla fiera di Milano con una Fiat 500 del 1972 resa elettrica. È con noi Gaetano Lalegname, presidente di Mobility Revolution, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma questa 500 funzionava o era una specie di grande abat-jour? No, funziona e funziona benissimo, e questo grazie a una delle nostre aziende partner, la prima in Italia accreditata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che realizza questi kit che permettono di trasformare un veicolo già esistente in un veicolo elettrico. Ma la prima o anche l'unica? È la prima e anche l'unica, però... siamo appena partiti, decreto è operativo da un anno. Sì, ma quando lei dice kit, nel senso che noi ci immaginiamo che uno è uno che se lo può fare a casa da solo con due cacciavite, è così? No, non è così. Il decreto è una cosa molto seria, difatti l'Italia è la prima nazione che ha una norma tecnica così evoluta, lo possono fare soltanto degli autoriparatori che hanno fatto la formazione, che hanno l'attrezzatura idonea e che hanno appunto seguito tutto un percorso di certificazione. Certo. Rendere un'auto elettrica, che cosa vuol dire? Escludere completamente dal circuito di alimentazione benzine, gasoli e quant'altro? Sì, si sostituisce il motore endotermico, si toglie il serbatoio, la linea di scarica, ti lasciano è soltanto, diciamo, la parte meccanica residuale, come l'impianto frenante, i servizi tipo l'ABS. Cioè, rimangono solo le portiere praticamente dell'auto. No, solo le portiere no. Comunque si mette un powertrain elettrico, il pacco batterie e l'elettronica di controllo, e la macchina diventa un veicolo elettrico a tutti gli effetti. Ma quindi è solo elettrica, non è una, diciamo, una cosiddetta ibrida che può andare sia a benzina sia elettrica? Solo elettrica. Perfetto. Quindi non si sbaglia. E quanto costa? La domanda è questa. Delle 100 pistole. Allora, i prezzi partono da 6.000 euro per arrivare fino a 10.000 per il kit degli autocarri fino a 3,5 tonnellate. Incluso il montaggio, eh. Ma quindi potete far andare elettrici anche degli autocarri fino a 3,5 tonnellate? Sono tante? Sì, sono i veicoli che distribuiscono le merci in città. Tipo i camioncini. Il cosiddetto Fiorino, per intenderci. Anche quelli più grossi, adesso non voglio quelli fare che portano pubblicità. I giornali alle edicole, quelli che portano... Esatto, quelli cassonati. Ah, perfetto. Lo dico io, Ford Transit. Per esempio, anche altre marche. Stiamo parlando di macchine elettriche, quindi non è questo. E quindi costa intorno ai 6.000 euro. E secondo lei, cioè, quello che mi chiedevo è una questione quindi per il privato cittadino che ha una propria automobile e un giorno dice: io la voglio trasformare elettrica, ci metto dentro questi 6.000 euro. Immagino che dopo intenda anche risparmiare nel momento in cui andrà con l'elettricità e non con la benzina, e va in questi posti specializzati e trasforma la propria automobile da benzina a elettrica. Esattamente così. Questi veicoli godono degli stessi incentivi dei veicoli elettrici nuovi. Poi tenete conto di una cosa, che per fare 100 km, ad esempio con quella 500 che avevamo, sì, fai la cosa giusta, si spende circa 1,90 euro di elettricità. Ecco. Ma vuoi mettere la figata di andare in giro per Milano mentre tutti sono fermi perché inquinano con una Fiat 500 elettrica, che tra l'altro emetterà un rumore non in linea con i ricordi della Fiat 500? Che rumore emette l'auto? La vostra? Allora, si sente solo il cambio. In quella macchina abbiamo lasciato il cambio e non si sente nient'altro, soltanto il rotolamento delle gomme e il rumore degli ingranaggi del cambio. Che tra l'altro qualcuno dice che questo sia in realtà pericoloso, perché uno non sente arrivare l'automobile. Non so se è pelo nell'uovo. Glielo chiedevo no, se è un tema o non è un tema. Ultimamente, circa 2 settimane fa, la Direzione Generale della Motorizzazione, che è l'ente che sta portando avanti questo decreto, ha fatto un aggiornamento proprio in tal senso, per mettere dei dispositivi acustici che appunto segnalano la macchina sia in marcia avanti che in retromarcia. È straordinario, perché quindi uno la fa diventare elettrica, però poi è obbligato a mettere su un CD che faccia un rumore fortissimo di automobile. No, a questo livello no, basta un semplice cicalino. Ah, va bene. Va e bene. Quanto, mi ripete il costo, perché sono ancora lì che ci penso. 100 km? Ah, no, scusa. 100 km di consumo? Si parte da 6.000 euro. No, parlavamo dei consumi. Ho sbagliato io, le chiedo scusa. 100 km costano? 1,90 euro per 100 km di un'utilitaria, ovviamente per poi andare su quando le potenze in gioco sono maggiori. Cioè 1,90 euro con una macchina normale quanto ci fai? Chiedi a me che 30, non ho la patente. 40 km, cosa ci 10, fai? 10, 20 km, forse 30. Noi abbiamo fatto un confronto con ad esempio quella 500, sì. Quella 500 lì aveva dichiarato dalla casa costruttrice che faceva circa 20 km al litro, quindi si spendevano... rapportato ai prezzi di oggi con la benzina circa 7 euro contro 1,90 euro dell'elettricità. Ma mi scusi la domanda da ignorante, che però mi viene sempre. Poi mettiamo che io faccio questa cosa, poi per ricaricarla come faccio? Devo tirare giù un cavo da casa mia? Ci sono dei posti in cui si va a ricaricare? Le colonnine. Oppure sono obbligato ad avere un box dove dentro ho la presa? Chiedo scusa, sono veramente ignorante, non c'ho manco la patente. Allora, guardi, intanto queste vetture possono essere ricaricate alla presa domestica, quindi chi ha un box è fortunato, può attaccarlo tranquillamente alla presa 220 e quella macchina, nella fattispecie la 500, in 4 ore si ricarica. Se poi invece si ha una colonnina vicina, si può caricare anche in 2 ore. Certo. Poi adesso è passato appunto il decreto DAFI, che permette anche al nostro paese di allinearsi alla Comunità Europea e in installeremo anche noi tante infrastrutture di ricarica. Bene. E quindi nei prossimi due anni sicuramente ce ne saranno più adesso. Torneremo a parlarne, grazie intanto al presidente di Mobility Revolution, complimenti per questa innovazione, ci piacerebbe che la lista al Ministero dei Trasporti di aziende come la sua si allungasse, perché dovrebbero essere il pieno, tutti, no? tutti che certo. Fanno, infatti dico solamente così per precisione, Revolution è scritto R minuscolo e poi Evolution maiuscolo, quindi più che rivoluzione è una nuova evoluzione. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain, scopri di più su faircam.com. vi presenta ho l'ultima storiella, se la volete sapere. Me l'ho raccontata ieri sera tardi. Allora uno dice a una ragazza: ma quanti uomini hai avuto tu? Dice lei, 4, ah no, 5. Beh, non sono tanti. Sì, devo ammetterlo, è stata una settimana piuttosto tranquilla. Ragazzi, io ve lo dico, sta tornando, io ve lo dico in anticipo, lo dico agli amici della seduta psicanalitica di gruppo che ormai è diventato il Partito Democratico, ma anche a quegli altri del Movimento 5 Stelle, a Salvini, a chiunque, occhio perché questo sta tornando, E le barzellette sono sempre quelle però, Sì, sì, sì, infatti c'è ancora gente che ride, però questo vuol dire che il suo ritorno è plausibile, perché se ancora gente che ride a queste barzellette vuol dire che lui sta tornando e potrebbe anche prendere i voti, io ve lo dico, preparatevi. Sì, sono tornate anche, ci sono anche in giro delle persone che in qualche modo lo fanno quasi rimpiangere, quindi ci mancherebbe. Pierpaolo da Trieste, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Vai. E per me Patrizia Panico, allenatrice under 16 della nazionale italiana. Questa è la risposta al personaggio della settimana. Esatto. Patrizia Panico, allenatrice. Beh, direi che manca solo l'applauso. Stavamo solo aspettando l'applauso. Esattamente, è il nostro personaggio della settimana. È la prima allenatrice donna che siede su una panchina di una nazionale italiana, nella fattispecie quella della under 16. Complimenti Pierpaolo, complimenti. Grazie, insomma, grazie. Questa notizia ci era piaciuta, ci sembrava una novità, un si può fare anche questo da sottolineare, quindi complimenti, ti porti a casa un libro, sarai contattato dal nostro centralino. Siamo ancora in attesa di ripianificare l'offerta dei premi, libri, mostre, vediamo, insomma, comunque ogni domenica, ogni sabato mattina continuiamo a regalarvi qualche cosa. Questo è l'importante. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida, a su familia ayudar. ¡Grande bien! Allora, Napoli si sta organizzando per questo, sarà l'anno di Diego Maradona, la cittadinanza onoraria che sarà concessa, credo, a maggio ci sarà la cerimonia, qualcosa del genere. A breve. Lo chiediamo ad Antonio Piccolo, presidente della scuola calcio Arcis Campia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona domenica. Buona domenica. Grazie altrettanto. Vi state preparando per questo grande evento a Napoli? Quando sarà? La data precisa ancora non è stabilita. Noi abbiamo lanciato insieme a Meridonare una piattaforma di crowdfunding perché vogliamo che Maradona sia ricordato nel tempo, che anche a Scampia, sport... anche a Scampia, dove c'è un'importante scuola calcio di cui abbiamo anche già parlato in passato. E cosa certo. Volete fare con questa piattaforma di crowdfunding? Noi abbiamo una rubrica al sabato che propone tante storie che cercano il finanziamento dal basso. Questa volta voi chiedete una mano per fare che cosa? Quindi in occasione dei 30 anni dello scudetto. Sì. Per la cittadinanza onoraria crediamo opportuno, come dire, di arricchire la città e omaggiare Maradona per tutto quello che ha fatto per la nostra città, per le gioie che ci ha regalato, per il senso di appartenenza e per come dire il, l'immaginario culturale e sociale che ha regalato a Napoli e che è entrato nel cuore dei napoletani, di regalargli una statua. Che ecco, una statua, la statua, la statua per Maradona. Ma tutte quelle polemiche ci sono state sulla questione dell'evasione fiscale, sullo stile di vita non proprio lineare di Maradona, la droga eccetera, voi vi fanno un baffo, cioè non vi interessa, interessa il campione sportivo, il messaggio. No, non ci fanno un baffo, però come dire, è importante che un uomo, per gli, quando commette degli errori anche gravi, poi li riconosca. Io credo che negli ultimi tempi Maradona abbia dato, come dire, dimostrazione, rincontrando un figlio perduto, uscendo dalla droga, che come dire, si può sbagliare, ma si può anche... Si cade, dire, ma ci si rialza. Degli errori e si può... si può rialzare. Senta, ma che cosa rappresenta Napoli, oggi dire, però, quello ecco, che rimane nel cuore, negli occhi dei napoletani, è la gioia, il grande riscatto che ha rappresentato Maradona per Napoli. Ma i bambini di oggi, ragazzi, rimane impresso nella mente sì, di tutti. I ragazzi di oggi che vengono per esempio alla scuola calcio lì di Scampia, conoscono Maradona, sì, sanno cosa sanno di Maradona. Ma Maradona lo conoscono tutti. Maradona è una favola, è un'icona, è una come dire, è un totem, è un qualche cosa che per chi fa calcio è importantissimo. Quindi noi crediamo che lo sport sano, quello che noi tendiamo a fare, sia una realtà, una reale alternativa ai ragazzi del nostro territorio, sia un validissimo appiglio sociale. Crediamo sia importante coltivare e divulgare la cultura. Benissimo, dello sport. Non abbiamo più tempo. Un grande abbraccio mille a Scampia, grazie, e alla scuola mille calcio, ai ragazzi della scuola calcio di Scampia, in attesa di vedere costruita, eretta la statua per Maradona. Esatto. È tutto anche per oggi, un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Carmelo Loricella, oggi in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo, come sempre, ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini. Voglio fare anche gli auguri a tutti i papà, oggi è la festa del papà, e ringrazio anche tutti quelli che mi scrivono oggi, che al proprio papà regalano il mio libro, che è una lettera a mio padre, quindi ne sono commosso e vi ringrazio. E anche a chi ci ascolta in podcast. Giusto, soprattutto i papà che ci ascoltano in podcast. Ciao.